Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Bijan Zarmandili, autore di I demoni del deserto, pubblicato da Nottetempo. È la storia di un viaggio, soprattutto un uomo e la sua nipotina che viaggiano attraverso l'Iran. Ma andiamo per ordine. Chi sono questi due personaggi? Intanto questi due personaggi sono il nonno e la nipote, ma probabilmente sono due persone che non hanno quasi nulla a che fare l'uno con l'altro, e questo è proprio il paradosso di questa storia. Quest'uomo non capisce soprattutto la sua nipotina. Lui non capisce la sua nipotina, ma la nipotina, che tra l'altro è una bambina di 13 anni, ha questo grosso problema di comunicazione con l'esterno, autistica, lei ha un proprio mondo con un muro davanti. Ma probabilmente più che lei, che è un personaggio lineare dopo tutto nella sua anomalia, è lui che invece si presenta all'inizio di questa storia come un nonno modello, come un uomo modello, un marito modello, un insegnante, un uomo colto, un uomo particolarmente rispettato nella sua comunità, in questa città dove ha vissuto. Ecco, attraverso il rapporto con questa nipotina così problematica, progressivamente si scopre. C'è questa odissea dopo questo terremoto di cui lei faceva accenno all'inizio della sua presentazione di questo libro. C'è un'odissea tra questi due superstiti, gli unici superstiti di questo terribile terremoto. Ecco, questa traversata attraverso i deserti, queste città verso il sud dell'Iran, verso il Golfo Persico, è lui che piano piano scopre qualcosa di sé che non sapeva. Ecco, diciamo che i due vengono a contatto, diciamo così, stretto per il destino, appunto, perché c'è questo terremoto, perdono tutto il resto della famiglia, sono gli unici superstiti della loro famiglia, e da qui inizia questo viaggio. Ma per andare dove? Per fare cosa? Lei ha detto una cosa molto importante adesso, in realtà, a proposito di questo libro. Lei ha detto che il destino, lei ha usato il termine destino in questo viaggio tra questi due. Il destino in questo libro, come gli altri fattori che hanno determinato la caratteristica di ciascuno di questi personaggi, in realtà mettono in evidenza che in questo libro, in questo romanzo, in questo uomo, in questa nipotina, è sospeso il tempo, cioè non esiste il tempo. L'antichità con fatti contemporanei, quindi il destino come qualche cosa che appartiene a una conoscenza orientale antica, con invece fatti di tutti i giorni, le guerre, trafficanti delle bambine spose di cui la bambina è vittima, questa disperata ricerca di lui per ritrovare questa bambina, che sono fatti che appartengono a oggi, si confondono con una visione del destino del mondo, della propria vita, della propria esistenza. Si confondono con superstizioni, si confondono con fatti della natura, vengono attribuiti alla natura qualche cosa che non immediatamente è di, diciamo così, conoscenza comune. I venti cominciano ad avere dei nomi. Ecco, questo voglio dire, è quasi, potrebbe essere una specie di racconto epico che ha cancellato i tempi. L'antichità dell'Iran, tra l'altro anche i luoghi dove questa storia viene a svilupparsi, cioè Girov, tutta la parte sud, è la terra dei Sumeri, cioè comincia dai Sumeri in poi. Quindi anche è una sospensione del tempo anche nei luoghi di questa storia. Quindi una sorta di racconto epico. Quindi i piani temporali si mescolano in qualche modo? Sì, anche perché in continuazione c'è un ritorno indietro. C'è un ritorno indietro non solo nella memoria, per esempio, di questo vecchio insegnante che si ricorda del proprio passato. Perché si ritorna indietro perché i personaggi appartengono al passato. Personaggi che vivono non so, a un certo punto il nonno viene consigliato di andare a una vecchia levatrice, di chiedere che rimedio può avere per le bambine così pensanti. Ecco, questo capitolo dedicato a questo incontro con questa vecchia donna che dice le sue, è veramente come tornare nelle viscere della storia, cioè tornare indietro secoli, che però sta là, è presente. Perché questo titolo, I demoni del deserto? I demoni, intanto perché il deserto contiene, nasconde i demoni anche. Perché il libro comincia con questo terribile terremoto, il terremoto di questa città straordinaria, meravigliosa, che è la città di Imam, il terremoto realmente avvenuto nel dicembre del 2003, veramente ci sono stati 50-60 mila morti, questa città straordinaria, patrimonio dell'umanità, è stata completamente rasa al suolo. Il deserto contiene, nasconde dentro di sé, non solo per delle convinzioni, diciamo, popolari, nasconde di sé delle di qualche cosa di cui gli uomini non si sono mai resi conto. La stessa spiegazione che loro danno della nascita di questo deserto contiene i demoni. E dopo i demoni sono i trafficanti di queste bambine. Una buona parte di questo libro, che diventa quasi un romanzo d'avventura in un certo senso, dove ci sono questi intrighi, queste regge dei capitribù che sono disponibili alle spese pazzesche per avere le vergini più belle della le bambine che vengono attraverso questi trafficanti portati. Cioè, c'è una parte dell'avventura. Sono demoni loro, ecco, sono demoni di quelle terre. Ma questi trafficanti di bambine esistono realmente? Sì, esistono realmente, specialmente. Lei si ricorda di Shirin Ebadi, premio Nobel Shirin Ebadi, subito dopo questa terribile, lei allora era ancora a Teheran, era ancora in Iran, viveva in Iran, adesso in esilio, subito dopo questo terremoto Shirin Ebadi aveva messo in evidenza la presenza dei trafficanti dei bambini e delle bambine, e aveva fatto delle cose in difesa di un eventuale. Ci sono. Questa è una, purtroppo, una realtà drammatica molto diffusa, perché effettivamente queste ricchi commercianti, non lo so, di Islamabad o piuttosto nel Golfo Persico, hanno delle come posso dire, delle regge piene di questi drammi di cui non si rendono conto in realtà. Perché ha deciso di raccontare questa storia? E allora devo tornare da un'altra parte. Guardi, questa è una storia che nel caso specifico avviene in una zona che conosciamo, è l'Iran, parte da un avvenimento del terremoto Bam. Ma in realtà è una storia che parla della vecchiaia, per esempio. Io volevo parlare della vecchiaia. Sono arrivato a un certo punto della mia vita, non è una riflessione sul mio passato, ma innanzitutto quelle che mi... Per carità, non voglio dire che bisogna per forza mettere sempre così morale o qualche cosa di parte, un fine, un obiettivo. Romanzo è un romanzo, letteratura... anche altri obiettivi in realtà, però nel caso specifico mi premeva sottolineare il fatto che un uomo anziano viene rieducato al caos della vita, e nel caso specifico questo fatto paradossale, quello che lo fa tornare a capire quali sono i suoi errori, di avere una coscienza di sé e quindi riaccettare quello che è il mondo, paradossalmente una bambina che è completamente chiuso verso l'esterno. È la nipotina che in realtà rieduca il nonno. Grazie a Bijan Zarmandili, autore di Demoni del deserto, edito da Nottetempo. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto ad Alessandra Tedesco.